Sì, è bene che ce n'è in mezzo, in mezzo a me. Ok, ho se. Ne sei se mi tieni, vai, che si